La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16.31, primi 24 secondi in diretta dagli studi di Milano, del 24, qui la versione di Oscar. Il titolare, sempre pro tempore ovviamente, però Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. E questa è una puntata nella quale vi invito più che altro ad ascoltare, più che a intervenire, tranne che... chi fosse vittima di una vicenda burocratica relativa a contestazioni edilizie sia sulla vostra casa che su esercizi commerciali, beh, è il giorno giusto. Cioè, se state combattendo una battaglia su rendite catastali di negozi, contestazioni da parte di abusi per qualunque intervento voi abbiate fatto, contestazioni rispetto a sentenze di tribunale precedenti che vi davano ragione da pezzi di amministrazione che ignorano in realtà le sentenze che ci sono state a vostro favore, questa è la giornata giusta. Se non avete voglia, perché vi viene troppo il sangue amaro, di dirci che cosa vi sta capitando e a quali medicine del fegato avete dovuto ricorrere per sopportarlo, beh, comunque per tutti è interessantissimo ascoltare la trasmissione di oggi, che nasce da un libro molto agile, perché sono in tutto meno di 100 paginette, l'editore Rubettino, e che io ho letto, adesso mi spiace che c'è l'autore ovviamente ospite, ma ho letto innanzitutto di pagina in pagina piegandomi in due dalle amare risate, e poi naturalmente l'amaro resta in bocca, però è scritta con una ironia, è tutto vero, tutto quello che è riportato è una vicenda in ogni singolo passaggio assolutamente reale, avvenuta nella città di Roma, e che inchioda da più di 20 anni l'autore del libro, che di mestiere fa in realtà giornalista, e a cui il papà all'inizio degli anni 90 ha pensato bene, immaginandogli di dargli una piccola rendita per il futuro del suo ragazzo cresciuto e magari dei suoi nipotini, ha pensato bene di cedergli, di donargli, di passargli in proprietà un pezzetto della sua precedente impresa commerciale, cioè 60 metri quadrati sul piano terra, categoria urbanistica C1, e poi una superficie interrata rispetto al piano terra, categoria urbanistica C2, cioè utilizzabile solo per magazzino. La storia di questo combattimento esasperante, protratto per decenni, con successive contestazioni, sentenze, ricontestazioni, negazioni da parte dello Stato di procedure che erano già state fatte, timbrate e pagate dal titolare anni e anni prima, è quello che di più simile mi è capitato in tempi recenti alla lettura di grandissimi romanzieri russi che a cavallo tra fine 800, primissimi anni del 900, ma soprattutto negli ultimi due decenni dell'800, usavano la penna in maniera magistrale per descrivere l'abisso in cui stava sprofondando la burocrazia zarista. Quindi stiamo parlando di Gogol, per intenderci, delle anime morte, stiamo parlando dei racconti come Il Cappotto di Gogol. Naturalmente l'autore preferisce, e questo, in questo lo capisco, citare Kafka, che forse è più noto e più letto anche ai nostri tempi, Il Processo di Kafka e così via, ma mi ricorda appunto soprattutto e innanzitutto Gogol, perché c'è una vena di ironia tutta incardinata su una vicenda reale di folle burocrazia italiana che rende questa lettura, primo, utilissima per capire come siamo ridotti sudditi nel nostro paese. Secondo, per apprezzare la mano straordinaria di chi l'ha scritta. Allora, il titolo del libro è Storia di un locale sfitto, sottotitolo Viaggio allucinante nei meandri della burocrazia, ripeto, Rubettino editore. L'autore, che è con noi, che ringrazio di aver accettato di parlarne ai nostri microfoni, è Stefano Caviglia. Stefano Caviglia è un giornalista del settimanale Panorama, che vive e lavora tra Roma e Milano, si occupa di economia e di pubblica amministrazione, però per molti anni diciamo che si è dovuto occupare di pubblica amministrazione in qualità di proprietario alle prese con un labirinto inesplicabile. Grazie, buon pomeriggio Stefano. Grazie a voi. Grazie molto per l'invito e anche per le cose che hai detto. No, diciamo la verità, tu ti sei ridotto a scriverlo quando hai smaltito la bile che avevi accumulato per 20 anni. Questo diciamo, mi sono ridotto a scriverlo anche per evitare che questa bile, diciamo, finisse troppo in circolo e mi danneggiasse troppo. Ho cercato di dare uno sfogo positivo, una sublimazione, diciamo, di questa vicenda e trovargli comunque un senso. Io ammetto, prima di invitarti a raccontarla, e tenete conto che non basterebbe mezz'ora per tutti i particolari, però io ti invito, prima di raccontarla per consentire a chi è a casa di capire, io alcune volte prima di finire di leggere ero assalito dall'impressione che stessi un po' romanzando, ma non perché non sappia per primo che tutto quello che scrivi avviene come per milioni di italiani, ma perché ammetto che incardinare una serie successiva così inesorabile di ostacoli tra l'Agenzia delle Entrate e il Catasto, gli uffici del comune, le norme sulle licenze commerciali, le norme sugli abusi edilizi dopo aver regolarmente messo in regola e pagato l'oblazione, ecco, è una cosa che ho detto, ma non è possibile un tale concentrato di sfiga micidiale, eppure è tutto vero, è tutto andato così. Infatti è proprio andato così. Io a un certo punto mi è sembrata così straordinaria questa storia, ho detto, beh, merita di essere scritta. Allora, procediamo a raccontare e a fare amaramente ridere chi ci ascolta. Sì, insomma, la storia è molto sinteticamente che io sono entrato in possesso di questo locale oltre 20 anni fa, cioè all'inizio degli anni 90, quando mio padre ha chiuso la sua attività di commerciante di tessuti che aveva svolto per tutta la vita in centro storico a Roma, ha scorporato un pezzo che c'aveva un accesso da un vicolo laterale e ha detto questo te lo cedo, e pensando che mi avrebbe aiutato, ovviamente è stato molto generoso con me, io gliene sono ancora grato, ora non c'è più da qualche anno. Però ahimè, diciamo, questa idea poi si è rivelata. In realtà nella sovraccoperta dietro, nell'ultima del libro, tu scrivi: mio padre, posta la sua memoria di essere fonte di maledizioni, decise di farmi un regalo, fu un grave errore. Fu un grave errore, perché poi alla fine successe tante cose, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito di più è che questa situazione si è aggravata negli ultimi anni, a testimonianza del fatto, e questo è l'insegnamento secondo me più importante che io penso di aver tratto da questa vicenda e per uno dei motivi per cui ho voluto scrivere il libro, è che la nostra burocrazia non è migliorata, è peggiorata negli ultimi anni, perché in particolare io sono entrato in questa giostra infernale quando ho deciso di cercare di trasformare la parte interrata che era C2 in C1, cioè da magazzino a commerciale, cioè utilizzabile per qualunque attività commerciale. E per farlo mi hanno spiegato tutti quelli che si occupano di queste cose che non c'era altra maniera che aderire al condono che il governo Berlusconi nel 2003 fece per cercare di sistemare un po' i conti pubblici italiani, e quindi lanciò questo condono e io aderì, senza sapere, ahimè, che una parte di questo interrato era in realtà soggetta a un vincolo urbanistico, perché proveniva da un altro fabbricato, perché mio padre nella divisione aveva deciso di accorpare una parte di cantina in cui si accedeva da una via al mio locale a cui si accedeva da un'altra via. E questo, diciamo, ha dato origine, è stato uno degli elementi che ha dato origine a questa odissea, perché poi ho scoperto che il suo condono non arrivava. Io ho pagato un sacco di soldi per fare il suo condono pensando di migliorare di gran lunga la situazione, il valore di incrementare il valore del mio locale. E poi però, diciamo, mi aspettavo che prima o poi il comune mi rilasciasse la concessione in sanatoria, in cui che mi autorizzasse poi a utilizzare questo locale interamente come un locale commerciale. Aspetta, alla fine sono andato a chiedere, nessuno mi sapeva dire come mai questa concessione non arrivava, anche perché il comune era in ritardo. Questa è una cosa pure che ho scoperto che mi ha sbalordito: ci sono tuttora a Roma 200.000 pratiche arretrate del condono edilizio, cioè il comune lo dice tranquillamente quando manda le mail ai cittadini per spiegare. No, stiamo parlando, lo ricordo che ci ascolta, col condono edilizio del 2003, cioè stiamo parlando di 13 anni di distanza, cioè 200.000 pratiche aperte 13 anni fa, e solo 2 anni fa mi hanno detto che non mi avevano ancora dato la concessione edilizia perché c'era questo problema del vincolo di cui io non avevo conoscenza. Questo, diciamo, è la fine della storia, perché poi alla fine io poi sono entrato in contatto con la soprintendenza e lì sono nate altre soprintendenza dei beni artistici e culturali, che ovviamente diventa a questo punto un attore importantissimo, perché si tratta di un bene vincolato e quindi ci sarebbe bisogno del nulla osta della soprintendenza per consentire che venga cambiata la destinazione d'uso. E qui, diciamo, alla fine, questo è il punto a cui io poi ho smesso di scrivere, perché ho detto alla fine che sorridevo di tanto in tanto quando succedevano delle cose quando subivo delle gravi vessazioni, perché pensavo che mi avrebbero aiutato a scrivere un libro migliore, ma poi alla fine dico troppa grazia, perché non mi sarei mai aspettato di avere una situazione così penalizzante. E però nell'arco di questa storia poi ci sono stati tanti altri elementi, come quello che citavi tu all'inizio, che pure è estremamente paradossale, quello che ho avuto con l'Agenzia delle Entrate per via delle rendite catastali. Perché a un certo punto la rendita catastale che ti viene applicata si moltiplica e si alza insindacabilmente in maniera unilaterale. Il tecnico, quando abbiamo fatto il condono, ha detto lo riaccatasto, sì. Lo ha riaccatastato e ha dato quelli che secondo lui erano i parametri giusti. Forse ha mancato di evidenziare adeguatamente che la parte sotto era effettivamente interrata, cioè che non si trattava di un'estensione complessiva tutta al piano terra, ma che una parte era interrata, e quindi al catasto non se ne sono resi conto, non l'hanno valutato e mi hanno attribuito invece una rendita estremamente più alta, usando così all'ingrosso i parametri della zona. E quindi quando mi sono visto arrivare questa batosta di cioè valeva parecchie, diverse migliaia di euro l'anno di ICI allora, questa rendita, quindi io l'ho contestata immediatamente, ho fatto fare ricorso a un tecnico che ha fatto il ricorso, lo ha vinto, dopodiché però nessuno mi ha detto, qui forse, non lo so, avremmo sbagliato anche noi. Quindi voi avete vinto a quel punto alla commissione provinciale? No, non solo che loro, questa è la commissione provinciale, mi ha dato ragione, no? In primo grado, ma nessuno mi ha avvertito che io dovevo portare la sentenza al catasto. Quindi io non l'ho portata al catasto, ero convinto che la faccenda fosse risolta là. E quindi che succede? Perché tu immaginavi che tra emanazioni, ma comunque dell'amministrazione tributaria, poiché tra l'altro il giudice tributario in Italia non è un giudice terzo, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, tanto per cambiare, noi non abbiamo diritto a un giudice terzo tributario, il giudice tributario appartiene alla stessa amministrazione tributaria che ci contesta unilateralmente, credendo di sapere meglio di noi la nostra cifra d'affari, il nostro impenibile, la nostra imposta dovuta. Il giudice appartiene alla stessa amministrazione, però peccato che le sue sentenze a favore del contribuente, che per vincere ha dovuto mettere sul tavolo per il solo fatto di andare a giudizio, anche se onesto e pagato tutto, oppure è stato commesso un errore ai suoi danni, deve mettere un terzo del petitum dallo Stato solo sul tavolo per poter avere diritto a un giudice non terzo che lo giudica come il giudice tributario, ma quando è a favore del contribuente, come è ovvio, il giudice tributario mica lo comunica alla stessa amministrazione fiscale da cui dipende, però tu questo non lo sapevi. E quindi, allora, ma cosa è successo? Malgrado avessi vinto, cosa succede? Cosa è successo? Che la rendita catastale nel database del catasto è rimasta quella che mi avevano attribuito erroneamente loro, cioè il doppio più o meno di quella reale. Io non lo sapevo, come non sapevo nemmeno che poi l'amministrazione aveva fatto ricorso contro la sentenza. E quindi di fronte alla commissione regionale? Esattamente, ero andato in commissione regionale, dove peraltro ho vinto senza sapere che c'era un giudizio. Perché non te l'hanno neanche notificato. Non me l'hanno notificato. Quindi anni dopo mi sono visto arrivare una cosa, lei ha diritto a 500 euro di rimborso, perché abbiamo vinto, ho parlato il tecnico, dice, ma io veramente non lo sapevo, non l'hanno notificato nemmeno a me, non ci siamo nemmeno andati in giudizio, e ciò nonostante la commissione tributaria, questo va detto a suo onore, evidentemente è terza, diciamo, almeno in questo caso, insomma, nello spirito, se non nella forma, così, della forma, avevo vinto. Però che cosa è successo? Che siccome nessuno aveva mai registrato queste sentenze, era rimasta la vecchia cifra. Quindi tu puoi aver vinto in due gradi di giudizio, ma la rendita restava quella unilateralmente. E che cosa è successo? Questo è veramente un paradosso che mi ha fatto, quando l'ho saputo, veramente mi sono preso un'arrabbiatura tremenda. Siccome io nel frattempo avevo fatto dei lavori e avevo dovuto presentare una DIA di inizio lavori, e per chiudere i lavori dovevo presentare un documento che si chiama DOCFA, che riporta anche la rendita catastale, e siccome la rendita catastale la sputa fuori il sistema in automatico, a quel punto io ho firmato il DOCFA, necessario a chiudere la pratica dei lavori, in cui sopra c'era scritta la vecchia rendita. Io non me ne sono reso conto, il mio tecnico non si è reso conto. Convinti di aver vinto in giudizio. Esatto, dice che quel problema fosse già risolto. E quindi quando mi sono poi reso conto del problema, ho detto no, ma qui c'è un errore, sono andato al catasto, ho detto no, la rendita catastale non è quella che dite voi, è la metà, mi hanno detto era la metà prima forse, ma dal momento in cui lei ha scritto questa roba qua, siccome lì c'è una voce che dice rendita proposta, non dice la rendita te la diamo noi e tu te la tieni, mi hanno detto ma scusi, ma è lei che ci ha proposto questa rendita, ma la vuole che gliela ribassiamo? Cioè, quel punto io mi sono trovato assolutamente disarmato. No, capito, tu hai pure speso l'avvocato per due gradi di giudizio, però te l'hanno infilata comunque in quel posto, perché tu hai firmato quella reddita, caro mio. Perché pensavi che valessero le sentenze del tribunale? Non ho capito. Poi l'argomentazione poi assolutamente paradossale è che questo dirigente con cui sono andato a litigare a un certo punto mi ha detto: va bene, è vero che noi non l'avevamo, perché all'epoca non avevamo l'obbligo di comunicare la sentenza, perché poi nel frattempo è cambiato questo, ora l'obbligo ce l'hanno, e riconosciamo anche che pur non essendo stata comunicata, quella sentenza era già in vigore, e quindi io le riconosco che lei all'epoca aveva la rendita abbassata. Ma adesso? Ma dal momento che lei poi ha scritto così, si vede che nel momento in cui lei ha fatto quel lavoro, lei ha incrementato a tal punto il valore del suo locale con i lavori che ci ha fatto, da giustificare la rendita che è quasi doppia. Ora, trascuro il fatto che nel frattempo eravamo entrati in una crisi dei valori immobiliari, cioè in un crollo dei valori immobiliari enorme, che è quello che si è verificato negli ultimi anni, quindi come poteva questo funzionario pensare che io avevo quasi raddoppiato il valore del mio locale semplicemente con dei lavori di manutenzione straordinaria, è per me un assoluto mistero, insomma. Allora, quindi, guardate, cari ascoltatori, che la cosa è ben lungi dall'essere finita, perché nel frattempo, siccome l'esplosione ovviamente delle imposte immobiliari sugli esercizi commerciali, perché vi ricordo che cosa è successo dal 2011 al 2014, noi abbiamo elevato gli introiti della parte patrimoniale sugli immobili da meno di 10 miliardi a 27 miliardi nel nostro paese. Questo naturalmente poi l'hanno abolito sulla prima casa, ma sugli esercizi commerciali è stata una botta clamorosa, nel mentre i consumi crollavano, e quindi lui non trovava, Stefano Cavigno, chi andasse ad accettare l'idea di gestire, pagandogli quel po' di affitto che serviva a rientrare dalla sberla delle tasse, oltre che su tutti gli oneri per dover rientrare delle spese in giudizio contro lo Stato e così via, eccetera, eccetera. Nel frattempo, in tutto questo, dopo tutto questo volgere di vicende, arriva la contestazione ex post dell'abuso edilizio, dopo tutte queste pratiche, dopo tutte queste lotte e così via. E a quel punto si ricomincia da capo. Nel frattempo, chi eserciva il locale, il localino, non avendo più la possibilità di andare avanti, sospende il pagamento del minor canone mensile che aveva accettato Stefano Caviglia, ma naturalmente per ottenere uno sfratto campa cavallo. Quindi è una storia in cui ci sono veramente tutti gli aspetti di quello che lo Stato può riservare a chi tenta, avendo avuto questa superficie, di farle produrre un reddito. Lo Stato riesce a impedire per 20 anni, sotto ogni possibilità, dall'aumento delle rendite catastali alla contestazione in giudizio non passata all'Agenzia delle Entrate, alla successiva contestazione che comunque il condono regolarmente fatto fin dall'inizio non valeva, perché c'era un vincolo che non era stato contestato, ma che comunque a quel punto continua a valere. In tutto questo, chiunque volesse volgere una superficie a creare reddito e lavoro, perché ci sta dentro, e per tutti, come vedete, non ci riesce, perché lo Stato da questo punto di vista dice che semplifica, ma in realtà complica. Torniamo tra un minuto, perché vedo che comunque ci sono telefonate. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare con Stefano Caviglia, l'autore di questo meraviglioso, amarissimo e divertentissimo Insieme, che se gli è costato molto caro, libro, storia di un locale sfitto, viaggio allucinante nei meandri della burocrazia. Io vi dico solo che al termine di queste novantina di pagine, che sono tra l'esilarante e il suicidario, l'ultima frase è l'invito all'urgenza della mobilizzazione straordinaria degli angioletti della maggioranza degli italiani, tutti insieme per combattere i demoni che imperversano nell'amministrazione di questo paese. Sentiamo le testimonianze di qualcuno di voi che ci telefona, cominciando da Claudio di Bologna. Claudio, prego. Buongiorno Giannino, complimenti per la trasmissione. Sì. Allora, noi nel 99 in provincia di Bologna sulla statale compriamo una stazione di servizio per riammodernarla e ampliarla. Paghiamo gli oberi di urbanizzazione primarie, circa 25 milioni di lire nel 99 per tutti i servizi. Ogni anno chiediamo il permesso di scarico, l'aggiornamento del permesso di scarico, non ci viene mai dato risposta, mai, da nessuno. Nel frattempo la strada passa da comunale a competenza provinciale, mai avuto risposta. Passano gli anni, da comunale passa a città metropolitana, via vai le raccomandate, ma è venuta risposta. Quest'anno a febbraio ci arriva la notifica di un giudice per uno scarico abusivo ai miei genitori, a mio padre e mio zio, persone di 72 anni, una denuncia penale per scarico abusivo. C'è poco da ridere perché c'è il penale, però naturalmente lo Stato, come ascoltate anche da Claudio, non dà segni di vita quando uno si vuole mettere in regola, dice ma ci sei che ti chiedo cosa... Però naturalmente si ricorda di Mazzolare. Questa è l'amara sintesi della vicenda di Claudio, che naturalmente io mi auguro riconosca i vostri diritti. Sentiamo Maurizio da Milano. Maurizio, prego. Buonasera, volevo sinteticamente raccontare la mia storia, che è un parallela a quella del che ha sentito di Stefano Caviglia. Sì. Ho aperto un albergo di quasi 100 camere in provincia di Bergamo, circa 3.000 metri quadri più parcheggio. Hanno accatastato e dato un valore da cui si ricava l'ICI anche al parcheggio come all'albergo, stesso valore, in pratica con 160.000 euro di affitto dell'albergo devo pagare 65.000 euro di ICI. Come si ben capisce, non, la società non può stare in piedi, la dobbiamo mettere in liquidazione, l'abbiamo fatto, è in liquidazione. Immagino con quale grande soddisfazione, soprattutto anche qui, sottolineiamo per chi ci ascolta, che uno Stato che ottiene questo effetto, poi capite bene, all'albergo c'è gente che ci lavora, che ricava reddito e così via, è uno Stato che si spara da solo nelle palle, perché poi ci rimette l'IVA, le imposte sul reddito realizzato a quell'impresa, oltre che ovviamente gettare sull'astrico la gente che deve trovare un altro lavoro, oltre che gettare a mare gli investimenti di chi quell'albergo l'ha poi preso e ci ha investito dentro. E queste sono le amare conseguenze di cui continuiamo a parlare. Ci dicono la semplificazione, sì. Allora, Stefano Caviglia, ma tu ci credi che ce ne possiamo venire a capo oppure no? Ma io sono abbastanza pessimista, come puoi immaginare, dopo questa vicenda. Soprattutto sono pessimista perché non vedo al momento, non vedo energie, diciamo, da dentro l'amministrazione che si mobilitino per un esito diverso. E la cosa che più mi ha sorpreso e amareggiato è, come diciamo viene fuori anche dalle telefonate che abbiamo sentito, l'assenza delle autorità quando dovrebbero, diciamo, indirizzare l'attività dei cittadini. No, e... scusa, io a questo proposito volevo proporre la lettura di una roba che mi ha molto colpito, tornando sulla faccenda delle 200.000 pratiche, auguri a Virginia Raggi, che rimangono giacenti negli uffici del comune di Roma, della capitale, sul condono. A un certo punto tu decidi di iscriverti online per fissare un appuntamento con gli uffici, sono pagina 67, c'è una lunghissima cosa di burocratese di risposta, ma la cui conclusione è questa, ripeto, 200.000 pratiche da 13 anni ancora, e la risposta così si conclude a te che hai chiesto un appuntamento. Nell'avanzare richiesto di sollecito, motivate dunque, occorrerà tenere conto di tale contesto organizzativo e procedurale, evitando di avanzare richieste temporalmente incompatibili con gli standard produttivi, procedimentali e con il quadro normativo vigente. Questa è la risposta dopo 13 anni che ti è arrivata. Voglio aggiungere una cosa che... E forse dipende anche da come sono scritte le leggi, io questo non lo so dire, o se dipende più da come sono scritte le leggi o da come sono interpretate, ma la verità è che su moltissimi aspetti nessuno ti sa dire, esatto, che cosa succede. Adesso io non so, ecco, potrei lanciare da Radio 24 un appello, c'è qualcuno che mi sa dire se l'esclusione prevista dal condono del 2003 per diciamo, gli edifici vincolati vale anche per i condoni senza opere come il mio? Cioè, perché io ho fatto un condono, ma non è che ho dovuto condonare un'opera, ho dovuto condonare solo un cambio di estensione d'uso. E qualcuno mi ha detto, no, ma guarda, se il condono è senza opere, è solo per il cambio di estensione d'uso, l'esclusione degli edifici vincolati non vale, perché tu non hai fatto niente. Però, secondo i funzionari della sovrintendenza, non era così. Secondo alcuni di sì, alcuni no. Un'altra alcuni cosa sì, che non alcuni so, no. Ma ne ho trovati 3-4, ma ho detto 3 cose diverse, 3-4 cose diverse. Cioè, il lunedì ti dico una cosa, il martedì te ne dico un'altra. Vabbè, senti, purtroppo io spero di aver dato un'idea a chi ci ha ascoltato che la lettura di questa storia di un locale sfitto, Rubettino Editore, di Stefano Caviglia, vale davvero la pena e naturalmente serve a motivarci per chi ci dice che ci dobbiamo accontentare, che lo Stato ha fatto enormi passi avanti. Sì, verso il nostro disastro. Grazie a Stefano Caviglia, appuntamento 8:15 domani mattina con me, Alessandro. Alessandro Milano, attenti noi due.